Cari ed illustri colleghi, il compito che mi è stato affidato è certamente molto arduo, sia in considerazione delle mie modeste forze, sia ed ancora più in considerazione del tempo messo a disposizione e dell'argomento che travalica quello dell'assunto del colloquium, che è, come tutti sapete, la recezione della storiografia medievistica tedesca in Italia ed italiana in Germania. Io dovrei parlare della visione della Germania medievale in Italia nell'ultimo secolo in mezz'ora. Credo che tutti converranno che poterlo fare in 45-50 minuti sia appena sufficiente. E dovrò farlo pensando soprattutto, se non esclusivamente, ai fenomeni di recezione più duraturi e o più discussi nell'arco dei 100 anni indicati. Il ricorso a precedenti e forse anche noti bilanci sarà inevitabile. Di tutto ciò vi chiedo scusa in anticipo. Nel 1932 usciva il 16° volume dell'Enciclopedia Italiana, che comprendeva la voce Germania. Il paragrafo dedicato alla storia del periodo incluso tra il primo secolo avanti Cristo e il 6 novembre 1932, in tutto più di 90 colonne, era compilato da Rodolfo Bottacchiari, professore nella Regia Università di Napoli di letteratura e storia della Germania. Ma si trattava di una collaborazione singolare e non solo evidentemente per il periodo. La bibliografia essenziale, peraltro, era solo in parte, in teoria corrispondente a un terzo della trattazione, opera del chiarissimo professor Bottacchiari, che nel 1948 sarebbe stato chiamato a ricoprire la cattedra di letteratura tedesca presso l'Università di Roma. La bibliografia del paragrafo Storia della voce Germania, infatti, recava anche le firme di Ottorino Bertolini e di Ernesto Sestani. Data, collaboratori, partizioni di competenze inducono a pensare che si volesse a un tempo salvaguardare probità di informazione, competenza e neutralità benevola nei riguardi di quanto stava accadendo in Germania proprio con le elezioni del 6 novembre 1932. Non a caso ho sottolineato l'anomalia di una voce così importante, con bibliografia curata da studiosi diversi da chi l'aveva stesa. Certe cose si possono cogliere, per quel che concerne interessi e opzioni storiografiche, dai rinvii a determinate opere. E restiamo proprio in tema di recezione storiografica, dacché il modello che della Germania medievale poteva essere recepito in Italia dalla storiografia più direttamente interessata, quella tedesca appunto, doveva, per lo specifico intreccio medievale delle due storie, e non poteva non essere fortemente condizionata, oltre che per particolari opzioni metodologiche e di filosofia della storia, dalla visione complessiva che del problema Germania la cultura storiografica dell'Italia unita e post-risorgimentale aveva ereditato dal Romanticismo. In altri termini, quel problema non poteva non risentire, almeno in determinati contesti, della conduzione politica italiana, di una dimensione nazionale, se non propriamente nazionalista. In questo senso, se la nostra notazione è esatta, la larga richiesta di identità, che era un lascito dell'Ottocento per la cultura storiografica italiana, non poteva non coinvolgere l'attenzione all'immagine che della Germania voleva e poteva offrire la medievistica tedesca. Con il che non si vuol dire che la recezione storiografica non avesse altro esito se non quello politico nazionale, ma che proprio la migliore storiografia medievistica italiana aveva guardato agli inizi del secolo con Gioacchino Volpe, ma non solo con lui, a tematiche di altro genere e a rappresentazioni di altro genere. Ma la liberazione da certi condizionamenti non sarebbe stata né facile né continua, in misura assai più decisa di quanto non fosse quella registratasi nella stessa Germania. E perciò abbiamo chiamato in causa la voce dell'enciclopedia italiana. Ciò premesso, diamo un'occhiata a quella bibliografia a più mani. Il compito ci è in qualche modo facilitato dalla stessa disposizione della bibliografia in questione, che presenta due blocchi. Il primo con una sezione storia generale, una sezione per la cosiddetta Kulturgeschichte, un'altra sulle città, un'altra per la storia economica e infine una per la storia religiosa. Quali le opere ricordate? Ne indicheremo evidentemente solo qualcuna. Per la storia generale, una sola opera di Richter Kohl, Annalen der deutschen Geschichte, che doveva arrivare sino alla fine degli Hohenstaufen, ma giungeva sino al 1137. Per quella che veniva definita la cosiddetta Kulturgeschichte, si passava dall'indicazione dell'Archiv für Kulturgeschichte agli studi di Scher, Deutsche Kultur und Sittengeschichte, alla Kulturgeschichte des Mittelalters di Grupp e ad altre opere minori. Sulle città erano ricordati dei classici, Max Weber, Karl Hegel, Georg von Below. Per la storia economica ancora dei classici, Inanna Sterne, Karl Lamprecht e Sombart. E finalmente Simonsfeld a proposito del fondaco dei tedeschi. Per la storia religiosa un solo classico, a parte la singolare menzione di repertori documentari assenti per tutte le altre sezioni, quella di Bellohaupt, Kirchengeschichte Deutschland. Opera indicata come fondamentale. Più significative le presenze di opere di matrice cattolica che non quelle di altra confessione cristiana. Ma a confermare che la gestazione di questa bibliografia era stata travagliata e a colmare vuoti estremamente sconcertanti, ecco diffondersi un altro, il secondo blocco, un'altra elencazione di opere, per lo più di storia politica, che rispondono non più ai criteri tematici della colonna all'incirca che abbiamo esaminato da poco, ma a periodizzazioni meramente cronologico-dinastiche, Franchi, Sassoni, Salici, Hohenstaufen, eccetera. E allora compaiono i Mühlbacher, i Gisebrecht, i Simonsfeld, gli Hofmeister, gli Schramm, la Italienische Kaiserpolitik e tante altre notazioni che noi oggi ci saremmo attesi di vedere subito esposte in quell'anno. È difficile, se non impossibile, cogliere un proprium germanico nella relazione tra lo svolgimento della voce e la bibliografia. E questo proprium non poteva trovare nessuna vera e autonoma collocazione, da che diversa sarebbe dovuta essere la stessa definizione di Medioevo. Non è un caso che proprio nella stessa Enciclopedia Italiana, nel 1934, la voce Medioevo, curata da Giorgio Falco, si ispirasse a connotazioni che sarebbero state poi celebrate nella Santa Romana Repubblica. Non dico certamente nulla di nuovo in proposito, se non la constatazione che in fatto di Medioevo germanico i presupposti concettuali e metodologici erano incerti o perlomeno non sviscerati a fondo, e deliberatamente è probabile non sviscerati a fondo. Discorso a parte si dovrà fare per la storia giuridica, e lo faremo. Che cosa in sostanza diceva la parte storica dedicata al Medioevo della voce Germania? Che cosa ne veniva evidenziato? Primo problema. E perché l'insistenza sugli aspetti unitari dell'Europa medioevale finivano col porre in secondo e forse anche terzo piano quello che abbiamo chiamato il proprium germanico del Medioevo? Secondo problema. L'esposizione della storia alta medievale e del Hochmittelalter germanico è tutta svolta su di una semplificazione interpretativa singolare e con dei silenzi estremamente significativi. La semplificazione riposa sulla dialettica elementare e di stampo smaccatamente nazionalistico dello scontro tra volontà unificatrice e civilizzatrice, cito, dei Franchi e in specie di Carlo Magno, per il formarsi di una coscienza tedesca intesa con anacronismi che risalteranno dalle poche citazioni che faremo, da un lato, e agitarsi di forze centrifughe. Non si salvano nemmeno i cosiddetti grandi ducati, che vengono tuttavia gratificati di una qualche qualità coagulante, che ostacolano quella che più volte viene esplicitamente chiamata la missione della Germania a raggiungere la propria unità nazionale. Tiepido il giudizio sui sassoni che si lasciano coinvolgere dalle vicende italiane. Silenzio quasi assoluto sulla diuturna lotta tra il Barbarossa e i comuni italiani, come prima era stato silenzio quasi assoluto sulle implicanze extra tedesche della lotta delle investiture. Non ho trovato nella voce Germania un cenno a Canossa. Sostanzialmente negativo il giudizio sulla italienische Kaiserpolitik. Vi leggerò solo qualche giudizio. Si delineava così il compito storico riservato ai Franchi in Germania: farsi prima contro gli slavi e gli altri barbari che ancora rifluivano dall'inesauribile Oriente, baluardo della nuova civiltà occidentale in via di formazione sotto gli auspici della Chiesa di Roma e delle non mai spente tradizioni imperiali. Passare poi alla controffensiva che avrebbe conquistato al cristianesimo l'intera Germania. Siamo al secolo VI secolo. Ma con Carlo Magno l'accentuazione del compito storico è decisiva. Il momento decisivo per la storia della Germania fu il dominio di Carlo Magno, che non soltanto condusse a termine l'opera di conquista dei Pipinidi, ma al paese conquistato diede gli ordinamenti che furono base dei suoi ulteriori sviluppi. E ancora, Carlo Magno era riuscito là dove Roma aveva dovuto abbandonare la sua opera, ovviamente anch'essa fatale. La Germania sino all'Elba entrava definitivamente a far parte del mondo civile occidentale e riceveva l'ordinamento dal quale si sarebbe svolta la sua vita ulteriore con quella maggior coscienza delle proprie forze e della propria missione. Salto molte altre cose. Dirò solo questo con un po' di cattiveria, che a proposito delle campagne di Enrico III alle frontiere orientali, un decennio di guerre contro l'Ungheria, 1040-1044, 1051-1054, permise di fissare stabilmente il confine, e poi sottolineato che poi si conservò sino al 1919, alla Laita e alla Morava. Il fatto più inquietante, storiograficamente credo più significativo, è il modo nel quale, essendo certamente il testo, se non opera diretta del Bertolini, almeno da supporre letto dal maggiore studioso allora del mondo longobardo, si elude completamente il problema della presenza longobarda in Italia. Due secoli di presenza, lasciamo stare i modi di dominazione, ma certamente di presenza non indifferente di una popolazione schiettamente germanica, sono taciuti. La Germania è concepita in termini di Stato nazionale ottocentesco, non di gentes, fatto grave ovviamente, perché elude un problema, quello delle origini dei comuni, che aveva pur conosciuto nello specifico un ben articolato dibattito sia nella storiografia italiana sia nella storiografia tedesca. tanto più grave, in quanto proprio la frage sui Longobardi era stata al centro del rapporto storiografico tra Germania e Italia, meglio tra Italia e Germania, nel corso del secolo XIX. E non possiamo non ricordare quanto osservava Otto Weiss in Die Deutschen in der Sicht der italienischen Medievisti des 19. Jahrhunderts, proprio qui a Trento. Ci torneremo a proposito della ripresa della questione da parte di Giovanni Tabacco. Per il primo problema, allora, sembra che possa prospettarsi una risposta. La voce Germania, per quanto concerne la parte storica, non solo medievale, visti certi accenni all'Austria del primo Novecento, non ha un effettivo rapporto né con la bibliografia né con il quadro generale in cui il Medioevo germanico è visto nelle sue valenze storiografiche. Quanto al secondo problema, di assolutamente diversa dimensione, le conclusioni possono essere più schematiche, ma di ben maggiore portata circa il significato culturale che l'opera che stiamo esaminando pretendeva di avere. Non potrebbe esserci maggiore discrepanza tra la concezione di Medioevo, in un'accezione latamente crociana, e il bisogno di accertamento di quel proprium germanico di cui si diceva. Non amo i paradossi, ma nel Medioevo di Giorgio Falco, accettato e canonizzato nell'Enciclopedia Italiana, per la Germania non c'è posto. E questo sta a dimostrare che per i preconcetti ideologici, i condizionamenti politici, i presupposti metodologici, in Italia al Medioevo si guardava con una estrema confusione di idee. Del resto, a prescindere dalle lodi a Falco da parte di Croce, non era il presupposto che chiamerei preconcetto di Gabriele Pepe sul Medioevo barbarico a distruggere ogni proprium, a cancellare definitivamente ogni possibilità di recupero di una identità germanica, equiparata con la qualificazione antistorica di barbarica che nessuno storico tedesco, soprattutto quelli così abbondantemente quanto inutilmente citati nella bibliografia della voce Germania, avrebbe accolto. In verità, l'acquisizione di un proprio germanico ed effettivamente in netta distinzione e contrapposizione con una tradizione di studi storico-giuridici romanistici che nel Savigny avevano avuto proprio in Germania uno spicco notevolissimo, la storiografia tedesca proprio negli anni intorno al 30 andava operando, e proprio in ambito di storia costituzionale e sociale. Basterà ricordare i nomi di Theodor Meyer e di Otto Brunner per comprendere a chi e a che cosa ci si riferisca. Ma così ogni idea di attenzione reciproca si vanificava per il venir meno del presupposto funzionale essenziale, quello della contestualità di notazione storiografica. Quando la revisione della storia costituzionale e sociale in Germania, con ambito di elezione medievistico, si andava facendo largamente strada, in Italia non si superava una visione mitologica del Medioevo tedesco, almeno come immagine vulgata. Non era stato sempre così agli inizi del secolo, e lo abbiamo detto. E non l'abbiamo detto solo noi, su di un piano generale. Nello specifico di uno studio di storia della storiografia comparata, proprio qui a Trento rilevava Giovanni Tabacco, a proposito di città italiana fra germanesimo e latinità nella medievistica ottocentesca, che il superamento della storiografia riferentisi alle etnie come appostulati da non dimostrare aveva avuto proprio nella recezione della storiografia costituzionale tedesca già nell'Ottocento un impulso vigoroso da Karl Hegel a Max Andloik, per il tramite del Troia e di altri. Quello delle etnie era un mito ottocentesco, duro a morire, siamo d'accordo, ma mito sempre e comunque. restando nell'ambito della storia delle istituzioni quanto oggettivamente veniva a accadere tra seconda metà del secolo XIX e inizi del secolo XX, era il presupposto della continuità che nelle realtà istituzionali faticosamente esprimentesi nelle vicende comunali aveva avuto interpretazioni per lo più negative, proprio per l'eliminazione della mitologia risorgimentale delle etnie contrapposte. Una mitologia che ancora appariva, pur volutamente nel titolo apotropaico, del saggio di Gioacchino Volpe, Lombardi e Romani del 1904. Richiami che abbiamo fatto, non perché, voglio dire, ci pare che la Germania medievale, nella recezione storiografica italiana, agli inizi del secolo XX, era pur sempre una recezione storiografica e perciò critica. Può essere così interessante, stabilire se quanto è stato accertato circa il rapporto tra storiografia costituzionale tedesca, almeno la prima storiografia costituzionale tedesca, e medievistica volpiana, come campo elettivo di sondaggio per determinati recepimenti medievistici, certamente assai più, credo, di quella salviniana, possa essere stato al nocciolo della straordinaria ripresa di certe tematiche nella storiografia del secondo dopoguerra. Anche perché esse hanno via via acquisito una rilevanza sempre maggiore, ma non sono state le sole e negli anni 50 e fino a metà degli anni 60 non sono state nemmeno le prevalenti. È dovuto ciò a continuità degli interessi più autentici che erano stati mutuati dalla medievistica tedesca in Italia per il tramite volpiano e poi interrotti? O era il risultato di uno sguardo retrospettivo critico che si imponeva pur nel ritorno appassionato a certe tematiche, ma solo nel secondo dopoguerra? Proprio il già citato saggio di Tabacco sulla città italiana fra latinità e germanesimo e i suoi contrappunti a Volpe inducono a meditazione. Non ripeterò cose dette da me e ben più articolatamente da Innocenzo Cervelli. Ma mi porrò la domanda che forse è ancora suscettibile di integrazioni di risposta, specie nella circostanza odierna, circa la distinzione che si possa o meno fare tra il debito alla storiografia tedesca nell'affrontare un determinato problema e l'individuazione di un proprium, in questo caso italiano, che potesse rendere più evidente il proprium germanico. Poiché mi pare sufficientemente assodato che in fatto di medievistica si possa oggi tranquillamente affermare che l'unica, oltre che prima, assimilazione degli esiti della reazione storiografica tedesca agli schematismi del Savini e più in generale del formalismo storico-giuridico e di ogni astratta e forzata idea di continuità che proprio la scuola romanistica tedesca aveva contribuito a sottolineare sia stata quella del Volpe. La stessa attenzione al fatto sociale dell'incontro tra stirpi kulturgeschichtlich diverse si pone come esito diretto dalla storiografia medievistica tedesca, ma non è ancora risolto in maniera accettata da tutti il fatto che il sociale, come fattore travalicante con vantaggio anacronismi e aporie di ogni idea di continuità e di statualità, o appena si sia saputo scegliere il tempo e il luogo, rimando ad alcune considerazioni mie di Cervelli a proposito del secolo XI e XI e di Toscana medievale, non abbia avuto primariamente anche tutti i caratteri impliciti dello sbocco allo Stato, come fattore teleologicamente ineliminabile. In altre parole, i Lombardi toscani, interpretati nei secoli XI-XII, come una classe sociale inserita nel contesto nuovo di una nazione nascente e che tendono al comune, tendono fatalmente al comune, sono un fatto rivoluzionario del tutto svincolato dal collegamento con gli antichi Longobardi. Una circostanza che oggi al tabacco appare altrettanto mitologica quanto quella risorgimentale delle etnie, da che l'incontro fra le genti immigrate dal nord e la cultura del mondo mediterraneo fu realmente il problema centrale dell'Alto Medioevo. E la città comunale italiana si organizzò in forme suggerite da tradizioni di pensiero, di mentalità, di attività guerresche e pacifiche, le cui radici affondano in ben determinate esperienze del millennio anteriore. È l'esplicitazione di meditazioni che già erano sottese al saggio relativo alla dissoluzione medievale dello Stato nella recente storiografia e richiamate nella breve premessa alla ristampa in opuscoletto separato per gli estratti di studi medievali nel 1979. Acquista semmai maggiore peso rispetto a precedenti valutazioni del tabacco il fattore latamente culturale di cui si fa tramite con peculiari interpretazioni proprio la Chiesa romana. Si fa decisivo proprio nei secoli centrali del Medioevo il collegamento, quanto artificioso e tumultuoso che sia, tanto però avvertito come necessario, con il ricordo della tradizione giuridica romana, importanza del ceto notarile. In questa prospettiva è già contenuta la risposta al quesito che ci siamo posti. Nella ricerca di un proprium italiano, il Volpe semplicemente rimuoveva l'incontro necessariamente dialettico, romanesimo-germanesimo di ben 5 secoli, che non consentiva nessuna definizione di tipo quasi biologico della nascita della nazione italiana. Si accostava con sostanziale favore alle tesi di Karl Neumayer circa il costituirsi di un diritto comune in Italia ad opera dei Longobardi, al di là del fatto meramente tecnico, perché esprime in un settore dove erano interminabili le querelle tra romanisti e germanisti quel processo di fusione delle stirpi che gli stava a cuore. Più degli ondeggiamenti e le alterne prevalenze di leggi longobarde o romane, di personalità o territorialità del diritto, in quanto le stesse oscillazioni erano il segno della compiente fusione. E questo è anche il significato profondo di affermazioni quali queste. Questo tuttavia rimane fermo. Che se nel XII e XIII secolo vogliamo spiegare ciò che ci si presenta ancora sotto le forme o il nome di latino e longobardo, diritto, professioni, di legge, tradizioni di famiglia, dobbiamo ricorrere non solo e non tanto a ragioni etniche quanto a ragioni e fatti sociali. Non pensare alla persistenza di famiglie romane e famiglie longobarde che siano e si sentano tali perché tali si professano nelle carte private, ma innanzitutto alla esistenza e alla vita profondamente diversa di una borghesia delle città e di una piccola aristocrazia feudale campagnola. Non credere che le lotte fra città e contado, fra popolo ed aristocrazia, dissimulino sotto le parvenze politiche e sociali il vero essere loro di conflitti etnici, ma piuttosto il contrario. Anche se la fusione delle stirpi non è ancora perfettissimamente compiuta, tuttavia le azioni e relazioni degli uomini, i loro diversi raggruppamenti e le diverse tendenze politiche e morali trovano piena motivazione e spiegazione nell'attuale fisionomia sociale degli uomini stessi, nella qualità e quantità della loro ricchezza, nel luogo e ambiente in cui vivono, e non già in distinte tradizioni nazionali, sempre vivaci e sempre tenacemente antagonistiche. Il politico sociale volpiano si afferma come il più corretto comportamento storiografico per cogliere il proprium nazionale. E d'altra parte, il problema del superamento delle pregiudiziali delle etnie, della contrapposizione Stato e società, che avevano animato tutta una storiografia tedesca alla fine del secolo scorso, erano stati invocati ed applicati dal Volpe, ma in maniera sostanzialmente aliena da qualsiasi forma teorica. Non per nulla e da più parti e in vari momenti, sino ad un recente e acuto intervento di Enrico Artifoni, si è notato questo rifiuto di intreccio sistematico della prosa narrativa volpiana. per quel che qui preme, è allora da notare che l'assunzione di certi stimoli che potevano venire dalla prima Verfassungsgeschichte, quella del Gierke, quella di Heinrich Brunner o di Georg von Below, così come quelli, tra i tanti, di un Crivelluccio, di un Villari, non andò al di là della suggestione. Ne consegue che quell'impianto e quell'apparato che avrebbero potuto risolvere ogni residuo di schematismo nella stessa storia comunale e fare di una certa storia sociale la risolutrice di storie politiche o economiche o giuridiche, non solo non fu costruito dal Volpe, ma nemmeno per suggestione sua, almeno contestualmente. Non si ebbe né una storia costituzionale giuridica né una storia costituzionale politica. Anche perché la mancanza di una reale meditazione sulle impressioni ricevute dalla medievistica germanica agli inizi del Novecento non rese chiaro ai contemporanei di Volpe, e forse anche ad altri dopo il secondo conflitto mondiale, che quanto si cercava di cogliere nello sforzo interpretativo della storia costituzionale tedesca era comunque la riaffermazione di un proprium germanico immaginato come originario. Considerazioni che valgono sia per la prima come per la seconda Verfassungsgeschichte, e lo abbiamo detto. Le insufficienze della voce Germania allora, negli stessi anni all'incirca, in cui si andava delineando addirittura la reazione a un certo tipo di storia costituzionale di prima maniera da parte di Theodor Meyer, discorso del 18 gennaio del 1933, che esaltava il carattere dualistico dello Stato tedesco, Reich und Länder, si spiegano abbastanza facilmente. Da quanto si è venuti dicendo, dunque, dovrebbe essere emerso chiaramente che di una vera, autonoma e cosciente recezione della medievistica tedesca per quello che è stata ed è tuttora si può propriamente parlare soltanto per il secondo dopoguerra, e nemmeno dal primo decennio, ove si pensi a quanto possa lasciare perplessi lo Stato e Nazione nell'alto Medioevo di Ernesto Sestan, che pure aveva presentato la traduzione italiana di Adeliges Landleben und Europäischer Geist. Tralasciando comunque questioni di collocazione cronologica di questa vera presa di coscienza, e c'è molta verità in un'osservazione di Pierangelo Schiera, che ha parlato recentemente, proprio pensando all'introduzione di Otto Brunner in Italia, di necessità di trovare alternative a uno storicismo un po' isterilito, al di fuori del modello quasi egemonico offerto dalla scuola francese delle Annales, vorrò riprendere, avviandomi verso la prima parte delle conclusioni di queste insufficienti escursioni di storia della storiografia, una considerazione iniziale relativa alla grande fortuna che ha conosciuto la storiografia costituzionale e sociale tedesca in Italia, pur proponendosi subito dopo il grande impulso che al rinnovamento degli studi storico-religiosi in ambito medievistico aveva offerto un più libero e immediato contatto con il pensiero della Nouvelle Théologie francese. Sia pure essenzialmente, mi sembra opportuno distinguere in quella fortuna due aspetti che non vanno assolutamente offuscati o confusi: il significato interpretativo e la fruizione della tecnica di ricerca. Per il primo aspetto mi pare abbastanza accettabile che ci si riferisca a riflessioni di Tabacco, a contrappunti di Gabriella Rossetti e miei, a riproposizione di opere da parte di Pierangelo Schiera. Mi fermerò, per ragioni di tempo, alle riflessioni di Tabacco, che non si esauriscono certamente nel pur fondamentale più volte citato saggio sulla dissoluzione medievale dello Stato. Esse si sono sempre più appuntate sulla rilevanza che quella storiografia aveva assunto e continuava ad assumere per il problema storico del potere nel Medioevo, in particolare riferito a un periodo anteriore a quello di elezione di Otto Brunner, l'Alto Medioevo e i secoli centrali del Medioevo, undecimo e dodicesimo. Penso solo, per esemplificare, alla puntuale registrazione che è avvenuta in moltissimi casi, per prima e in maniera assai ampia in Italia, di lavori del Mitteis, del Boss, del Brunner, sino ai più recenti interventi coinvolgenti le valutazioni di storici tedeschi dei nostri comuni, dall'Aferkamp, qui presente, al Dilker, al Keller. È da dire che tanto più feconda è stata per la nostra storiografia medievistica questa attenzione, in quanto ha sempre mantenuto valido il parametro della storia e della storiografia comparata, e ne ha riferito pensando non certo alle possibili applicazioni automatiche o quasi a indagini in area italiana. E proprio questa avvertita consapevolezza ha anche suscitato in lui, in casi in cui gli intervenisse di incontrarsi con moduli interpretativi che sembrassero ricalcare nell'analisi di fatti politici e sociali italiani, procedimenti sperimentati proprio dalla Sozialgeschichte per la medievistica tedesca, osservazioni e perplessità. Per affermare che l'ottica delle morfologie del potere, dalla quale si pone il tabacco, si dispone naturalmente ad accogliere le risoluzioni degli schemi operati dalla storiografia medievistica tedesca, ma vuole conservare semmai arricchita la potenzialità interpretativa di una dinamica e di una dialettica storica. Mi pare significativo che, concludendo l'ampia e puntuale recensione ai due volumi dell'Haferkamp sulle forme di esercizio del potere dei primi svevi in Italia, egli affermi: dall'impegnata opera dello Haferkamp risulta con tutta evidenza che ci troviamo di fronte a una fase strutturalmente intermedia tra la generica preponderanza perseguita in modo discontinuo da un principe in un dato ambito territoriale e la costruzione di una disciplina politica istituzionalizzata. Mi avviene, continuava, tuttavia, di pensare che il realismo del Barbarossa e la capacità della sua curia di affrontare il problema italiano ebbero limiti gravi, quali si concreterebbero nell'assunzione da parte del Barbarossa di una politica assolutamente svincolata da condizionamenti di tradizioni dell'esercizio del potere imperiale, avente come solo costante obiettivo quello di mantenersi allo stesso livello di disinvoltura politico-istituzionale in cui erano cresciuti i poteri locali. E questo ammettendosi che non si trattava del contrasto insanabile tra due sistemi politici contrapposti. La lunga citazione mi sembra illumini in modo particolare la qualità della recezione da parte di Tabacco di una storiografia medievistica tedesca di grande momento. Io penso che se si concede al nostro illustre collega qui presente che la politica imperiale sveva in Italia sia quale poteva risultare da una fase strutturalmente intermedia, le spregiudicatezze, le incoerenze, il caos giuridico, queste espressioni sono di Tabacco, non sono in realtà tali, ma sono il proporsi di strutture sociopolitiche del potere concepito nella dimensione paratattica. Poiché questo soprattutto interessa all'Haferkamp, mi sembra, al di là delle teleologie, comunque sempre implicite, d'altra parte, in giudizi del tipo, e il giudizio di Tabacco, l'impero degli svevi apparve in Italia non come un energico potere moderatore, ma come una complicazione politica affatto inutile. Il secondo aspetto della fortuna italiana della storiografia costituzionale e sociale ha investito non le discussioni di storia comparata, o perlomeno non primariamente quelle discussioni, bensì una modellistica tecnica, in primis quella prosopografica. In questo caso, proprio quell'impianto e quell'apparato che per portare a verifica le suggestioni che il Volpe aveva recepito dai suoi contatti con la storiografia tedesca dei primi del secolo, non solo si offriva in lavori precisi e rigorosi condotti in area germanica, ma era direttamente sperimentato, per così dire, sul campo in Italia dalla scuola di Gerd Tellenbach, che a differenza di quanto era avvenuto per il primo aspetto della fortuna italiana della storiografia tedesca di cui stiamo parlando, costituiva, per gli stretti rapporti che si stabilirono tra l'Istituto Storico Germanico di Roma e l'Istituto di Storia Medievale dell'Università di Pisa, sotto la guida di Cinzio Violante, un vero e proprio gruppo di ricerca italo-tedesco, in specifica area toscana. Ma le Toscana Forschungen che Gerd Tellenbach hat wieder in Gang gebracht avevano loro proprie ascendenze E d'altra parte non si poteva meglio delineare la volontà di dichiarare la derivazione volpiana almeno da parte dei ricercatori pisani. Dagli atti del V Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, tenutosi a Lucca nel 71, a quelli sui ceti dirigenti dell'età precomunale, a quella tardo comunale, 78, 79, 80, la Toscana ha offerto un terreno di indagine vasto, fecondo, nettamente svincolato da ogni presupposizione di storia etico-politica, andando per una strada che consapevolmente perseguita dà l'impressione, almeno la dà a me, di essere diversa nelle implicanze da quella che Volpe aveva lasciato intendere di aver imboccato. Ci si potrebbe chiedere perché, dopo aver fortemente sottolineato il carattere pragmatico della diversa, rispetto alla storiografia italiana tradizionale, verifica della scuola pisana, io ritenga, forse perché non dimentico di certe lezioni tradizionali di quella storiografia, di poter ancora parlare di un'opzione consapevole. L'attività dei colleghi e amici di Pisa è tale che mi sembra che non possa esservi dubbio sulla piena coscienza della loro scelta di modellistica di indagine. Anche perché proprio una collega ed amica, la professoressa Rossetti, aveva in anni non più recenti, insieme con Tabacco e con me, avviato un certo discorso metodologico. Ma illuminante mi appare la relazione introduttiva di Cinzio Violante al convegno sui ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale, che esprime non solo con l'assoluta onestà di storico che gli riconosciamo da sempre, ma con un non mai intermesso senso di autocritica questo giudizio. Anche se per tali considerazioni ho tenuto presenti lo sviluppo delle istituzioni politiche e l'evoluzione degli istituti giuridici in rapporto con la realtà economico-sociale in movimento, ma ho quasi trascurato in essi con le vicende politiche, in questa sede di storia familiare ho sostanzialmente fatto oggetto del mio lavoro le strutture, essendo ben consapevole di pormi dei limiti e di accettare una certa astrattezza di risultati. Penso infatti che soprattutto quando la documentazione è, come in questo caso, insoddisfacente, sia necessario condurre sino all'estremo limite delle possibilità tutta una serie di siffatte esplorazioni unilaterali, se si vuol tentare poi, con una intuizione di sintesi, di penetrare nell'intimo della realtà storica. Dove, tra le ovvie numerose constatazioni che si potrebbero fare e in parte altrove ho già fatto, è da porre in grande rilievo quell'asserzione sino all'estremo limite delle possibilità, che non fa concludere per concupiti abbracciamenti neopositivistici, soltanto perché grandemente temperato dall'abituale intelligenza e probità disvelata dal riconoscimento o quasi trascurato in essi con le vicende politiche. Si può comprendere allora, ed esemplifico soltanto, che la discussione all'interno di questa globale accettazione di un metodo, e però va aggiunto con esso anche dei rifiuti più o meno dichiarati, si può determinare quanto a rispetto di quell'estremo limite delle possibilità, come mi pare sia accaduto in certi dissensi tra Gabriele Rossetti e Hans-Martin Schwarzmeier a proposito di Lucca. Diversa, ed anche questo ci sembra sia importante perlomeno accennare, la qualità delle caute riserve che vengono espresse dagli allievi di Tabacco, Sergi e Bordone, nei riguardi di Hagen Keller, tra i più preparati ed attenti attori ed interlocutori del nuovo discorso instauratosi in Italia a proposito dei comuni. È più che sufficiente rimandare a quanto ha scritto il collega Haferkamp nelle conclusioni al convegno trentino sull'evoluzione delle città italiane nell'undicesimo secolo. E quanto ai rapporti tra le tesi di Brunner e la concreta verifica della scuola del Tellenbach è questione che riguarda più un dibattito all'interno della medievistica tedesca, anche se va pur preso atto che recentemente Paola Guglielmotti, in esperienze di ricerca e problemi di metodo negli studi di Carl Schmitt sulla nobiltà medievale, ha notato che Tellenbach non ha preso mai del tutto le distanze dalle posizioni sostenute dalla Neue Lehre. Ma l'impegno dichiarato della Neue Verfassungsgeschichte a recuperare il senso proprio del rapporto tra istituzionalità, concettualizzazione, e cioè espressione terminologica e contesto storico fattuale, sembra, anche se non direttamente, essersi manifestato in questi ultimi anni in un settore in cui la storiografia medievistica italiana era stata prevalentemente in posizione di accoglienza, sia di risultanze sia di metodi, non troppo discussi per dire il vero, per la peculiarità di quella storiografia rispetto alla storiografia anglosassone e francese. Voglio dire la storiografia del pensiero politico. Intendiamoci, si tratta di intrecci che non hanno l'evidenza che si è testé riscontrata per la storia politico-sociale, con particolare attenzione al problema dello Stato, e di cui con diverse accentuazioni sul politico o sul sociale rispettivamente, gli ascoltatori più sensibili ed acuti e critici sono stati, come già indicato, il tabacco e la sua scuola e il violante e la sua scuola. E quanto al rapporto con il dibattito aperto dalla Neue Sozialgeschichte in Germania, specie dagli anni 60 in poi, e ne ha scritto ampiamente Gustavo Corni negli annali di questo istituto nel 77, penserei soprattutto a certe suggestioni di Koselleck, di Conze e ancora di Brunner nel campo della storia dei concetti storici fondamentali, della Begriffsgeschichte. Per comprendere appieno il senso del recepimento della medievistica tedesca in questo settore, basterà spero fare il nome del Mitke e in Italia quello di Carlo Dolcini e di Diego Quaglioni, cresciuti peraltro e anche in ascolto di altre esperienze e di altre mediazioni, anche di quelle di chi vi parla. La decisa opposizione di Jürgen Mitke, infatti, ad ogni forma di anticipazione e di ogni teleologismo obbligato dello sviluppo di un pensiero, che più dello stesso processo di elaborazione istituzionale e per lo stesso fatto di essere processo di pensiero, che ha in sé le ragioni di un inevitabile coagulo, ha matrici che non ci sembra possano essere solo quelle di una accentuata acribia filologica, ma anche quelle di un abbandono definitivo di ogni forzatura di continuità. Non l'eliminazione dell'Erlebnis, ma nemmeno un attardarsi esclusivo sui fattori promozionali della stessa. Il recupero di Meinecke, della idea del Staat Raison, e del Bilthey, della critica della ragione storica, che è stato intravisto, e giustamente credo, nell'impianto dato dal Mitke ad alcuni dei suoi contributi principali in tema di storia del pensiero politico ed ecclesiologico, è però un'esigenza che nell'atto stesso della recezione di certi risultati la storiografia italiana più consapevole e recente ha voluto intendere come presupposti conoscitivi, il che è frutto di un'esigenza teorica alquanto diversa. Non per nulla è stato rilevato un momento teoretico di indubbio rilievo per questa storiografia, e cioè l'istanza dello strutturalismo giuridico non è presente almeno a livello di dichiarata assunzione o differenziazione. Se è certo che Mitke sia in linea con la tesi di Meinecke nel valutare l'idea o il dato di coscienza come elemento primario, è però altrettanto vero che lo storico tedesco Mitke non si accordi con il suo illustre predecessore Meinecke nel considerare la storia delle idee come comprensiva della storia dei fatti. Ha un forte senso dialettico, insomma, che è inevitabilmente presente nella idea del Staat Raison, fa riscontro un andamento della coscienza della ricerca che tenga come costante la possibilità complanare di due linee, quella della storia delle idee e quella della storia dei fatti, in cui alle idee si chiede soprattutto di svelare la loro funzione nel contesto dei fatti. Così progetto e pianificazione di un disegno politico e processo storico hanno un nesso di maggiore o minore funzionalità in una connessione dinamica che vede le opposizioni in una stessa struttura, ma con una identità autonoma. Non si arriva nemmeno all'eterogenesi dei fini, pur se ci si avvicina. E appunto nella recentissima proposta del Dolcini noi abbiamo una verifica molto puntuale di questa storiografia da Sinibaldo Fieschi e Guglielmo Docca, dove, ripetiamo, è però lo studioso italiano a sforzarsi di penetrare nei presupposti epistemologici dello studioso tedesco. E ciò può spiegare perché di quel referente privilegiato che sarebbe stato il lavoro del Costa su jurisdictio, semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, non si trovi menzione in certi lavori della storiografia politologica medievistica tedesca. A sottolineare una sostanziale omogeneità di cautele, non dirò di incertezze, nell'affrontare i problemi epistemologici, come a sottolineare un fenomeno che, pur marginale rispetto al tema del nostro colloquium, si va facendo sempre più evidente nella reciproca fruizione in ambito medievistico italo-tedesco, e cioè quello della vicendevole conoscenza delle rispettive lingue, abbiamo peraltro oggi uno dei rari casi di discorso teoretico sulle fonti narrative e pubblicistiche della medievistica, specialmente per la Germania, avviato in una sede inequivoca ma per lo più ignorata. L'Archiv für Kulturgeschichte nel 79 pubblicava, all'incirca nello stesso periodo in cui io pubblicavo Medioevo passato prossimo, l'articolo di Hans Werner Goetz, Vorstellungsgeschichte, menschlichen Vorstellungen und Meinungen als Dimension der Vergangenheit. Si tratta di lavoro pressoché passato inosservato in Italia, pur se impegnato in un settore, quello della cronachistica e pubblicistica, che ha avuto da non molti anni or sono gli onori di cattedre universitarie e l'indicazione di possibilità di utilizzazione sostanzialmente coincidenti con i presupposti metodologici indicati dal Goetz. Intendo riferirmi a me stesso, a due saggi apparsi in Atti di Spoleto e negli Atti per il 90° dell'Istituto Storico Italiano, così come a un saggio, cerco di abbreviare, che è apparso in una raccolta dedicata a Dante, riferimento storico e pubblicistico nel commento di Bruno Nardi alla monarchia dantesca. Lavori tutti, l'ultimo soltanto era dell'80, che non vengono presi, come già detto, in considerazione nell'esemplificazione del Goetz, ma che comunque si muovono nello stesso ambito di considerazioni generali dello studioso tedesco. Non si tratta evidentemente di nessuna oggettiva reciproca influenza, ma è tanto più interessante rilevare come due tendenze storiografiche, non definitivamente disperate di recuperare una valenza conoscitiva al discorso storiografico, trovassero, o meglio ritrovassero nell'attenzione all'uso delle fonti narrative, la possibilità di avviare una discussione sui valori. Ed ultima, in ordine di tempo, attestazione di questa applicazione, che molto deve all'egualmente ignorato saggio di Helmut Boymann, di Historiographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des Königtums, e l'indagine di Jörg Busch, Landulfi Senioris Historia Mediolanensis, Überlieferung, Datierung und Intention. Intention, si badi bene, rimanda alla possibilità di valenze conoscitive. E a breve, soltanto ricordando che è sintomatico il ricordo che nel lavoro di Bush si fa del saggio di Brian Stock, The Implications of Literacy. Non arriveremo a dire che la Vorstellungsgeschichte sia allora il punto più alto e più completo di ogni tentativo di storia globale, anche perché siamo ai primi passi. Ma l'incontro non mediato di due tendenze che abbiano scontato tutta un'esperienza storiografica rimane per me significativo. E la stessa cosa forse si potrebbe dire a proposito di reciproche influenze tra gli studi di storia del diritto canonico. Ma dovrei parlare ancora più a lungo e soprattutto dovrei parlare di me. Sempre più l'accertamento testuale, nel senso della riconsiderazione della tradizione manoscritta, viene considerato preliminare a ogni discorso conclusivo in Germania. Mentre è indubbio che in Italia questa esigenza metodologica si fa strada con molta maggiore fatica. O se si afferma, come nel settore della mediolatinistica, non ha esigenze di collocazione storica in senso proprio. Ed è per questo che ritorno all'attenzione sulle fonti, non solo documentari, che hanno goduto di un nuovo periodo di fortuna, come già accennato, ma anche narrative, deve essere auspicabile in una dimensione veramente globale. In tal senso, ma non è certo stato determinante l'apporto della medievistica tedesca, noi abbiamo un esempio recente, è l'edizione delle storie di Rodolfo Glabro, a cura di Giovanni Orlandi e di Guglielmo Cavallo. Ma è un apax nella medievistica italiana da quando l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo pare abbia rinunziato alla sua funzione di principale promotore di edizioni di fonti o anche semplicemente di promotore di aggiornamenti. Nonostante le indicazioni che sarebbero dovute venire dal convegno promosso proprio da quell'istituto in occasione del nono della sua fondazione, fonti medievali e problematica storiografica, e che in taluni casi vennero, non si è sistematicamente intrapresa un'opera di superamento della vecchia contrapposizione tra filologia e storiografia. In tal senso, fatte solo pochissime eccezioni, la ricezione della medievistica tedesca da parte di quella italiana non potrà che essere sempre più completa e a senso unico. Questa introduzione al nostro colloquio non potrebbe avere maggior numero di pecche, la lunghezza, la incompletezza. Non ho parlato della importanza fondamentale che ha avuto, o si diceva avesse avuto, l'opera di Grundmann. La lunghezza, la incompletezza sono quelle più evidenti, ma vi avevo chiesto scusa in anticipo. Mi pare comunque che se nonostante i difetti e i limiti della mia esposizione un elemento di un qualche interesse sia emerso, esso è costituito dalla circostanza che quello che potremmo chiamare il bilancio dell'interscambio tra la storiografia medievistica tedesca ed italiana in questo secolo abbia assunto con progressione geometrica negli ultimi 30 anni una fisionomia molto più accettabile e mi pare molto più consapevole. Il merito è in primo luogo della storiografia tedesca, secondariamente di quella parte della storiografia italiana che l'ha saputa valutare. In terzo luogo di coloro che con modestia, e specie in Italia, hanno ritenuto che sia ancora utile fare della storia della storiografia. Grazie. Ci sono interventi appunto sulla relazione Capitani. È molto chiaro. È difficile. Bisogna leggere e meditarla. È impossibile intervenire, per me in modo particolare, che non sono un medievista, insomma. Ma in generale la relazione dei Capitani, secondo me, è stata quella che noi auspicavamo e anche di più, naturalmente, perché ci ha fornito anche un po' una resa dei conti, insomma, dell'impegno che da parte italiana c'è stato a inseguire, a capire, a discutere, accettandole o meno, certe evoluzioni che nel campo invece, nel campo della storiografia tedesca, sono sicuramente più visibili, più importanti, più imponenti di quanto non sia stato qui da noi. Io non voglio entrare nel merito delle cose che Capitano, non posso entrare nel merito delle cose che Ovidio Capitani ci ha detto, sono rimasto molto impressionato dalla sua costante accentuazione del leitmotiv, del filo rosso della storia costituzionale, come anche lui la chiama, all'interno della medievistica tedesca. Cioè, mi pare di aver capito che è questo, almeno la sua interpretazione mi pare che sia la seguente, cioè che il confronto fra storiografia italiana e storiografia tedesca, per quel che riguarda lo studio del Medioevo, è avvenuto essenzialmente su questa via, su questo sentiero della storia costituzionale, pur nelle diverse accezioni, naturalmente, che questa Verfassungsgeschichte ha presentato dalla fine dell'Ottocento fino, diciamo pure, ai giorni nostri, perché siamo arrivati a, quindi, durante un secolo quasi, no? Quindi questo è un primo aspetto molto interessante, e mi piacerebbe, anche se questa non è la sede, sapere meglio da Capitani appunto come lui riesce tutto sommato a comprendere sotto questo, in questo canale della storia costituzionale punti di vista anche abbastanza diversi fra loro, eccetera. Ma c'è una domanda, una richiesta di chiarimento ancora preliminare, molto banale, generica, che vorrei fare. E riguarda, naturalmente questo richiederebbe non solo una relazione ma un corso intero, ma cioè riguarda la cosa seguente. Ecco, lo stacco, no? La distanza, la divaricazione fra questa, diciamo così, questo atteggiamento mitologico, si diceva Capitani, della storiografia italiana fino a un certo periodo, no? Ecco, e invece la tanto più consapevole o comunque attrezzata storiografia tedesca, appunto costituzionale. Questo stacco è uno stacco che riguarda, questo stacco fra le due storiografie, è uno stacco che si riferisce soltanto al rapporto fra storiografia italiana e storiografia tedesca, oppure è uno stacco che in generale, secondo Capitani, caratterizza la storiografia italiana nei confronti di tutte le altre storiografie più avvertite, ecco, cioè per esempio nei confronti della storiografia francese. Notevole influenza che in molti aspetti perdura ancora, anche se non è certamente più la primaria, che è stata appunto un'influenza di una storiografia francese. E con questo io preannunzio anche la risposta. Ma è indubbio che la storiografia italiana sul Medioevo ha conosciuto, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, ha conosciuto una crisi profonda, da cui si sono salvati alcuni elementi, alcuni autori, soprattutto per quello che concerne il basso Medioevo. Abbiamo ancora delle punte negli studi sulle signorie, ma non abbiamo certo quell'interesse complessivo per la storia comunale che era stato proprio degli inizi del secolo. Questo lo lamentava anche Ottokar. Devo dire che a questo aveva contribuito da un lato sì, una certa enfasi che io ho creduto di ritrovare nella visione italiana della Germania medievale nella vostra enciclopedia, e una enfasi che è ancora molto più sottolineata nella voce Italia dell'enciclopedia, voce che, come sappiamo tutti, fu affidata a Gioacchino Volpe. E che certo, qui c'è uno specialista di Volpe che è Cervelli, ma a me pare che quella voce Italia non riproducesse certamente gli aspetti, se ci sono stati mai veri e propri aspetti pensosi di Volpe, non li riproducesse. Ma poi c'era un altro fatto. Per quanto il regime fosse quello che era, pesava sulla storiografia medievale italiana, io questo l'ho scritto molti anni fa, l'ho detto, qualcuno ha forse anche frainteso questo. Non ho bisogno di fare professioni di fede crociana, perché lo sono stato quando ero uno studente ed è difficile che io mi liberi da certe cose, ma è indubbio che l'atteggiamento di Croce nei riguardi del Medioevo, complessivamente considerato, ha distolto e da certe tematiche e anche da certe attenzioni a quanto avveniva nell'ambito della medievistica ha distolto gli studiosi italiani. Se io penso alle cose più significative su un piano di storia medievale generale che in Italia ci sono state, beh, devo pensare a quelle, a quei volumi di Bertolini, di Brezzi, di Dupré, che sono apparsi a cura dell'Istituto di Studi Romani e che costituiscono il miglior contributo che in quegli anni, che poi vanno relativamente dal periodo fascista. Sono certamente studi che si sono iniziati allora, ma ecco, sono casi questi, soprattutto quello di Bertolini e di Dupré, di persone che non hanno avuto nel periodo fra le due guerre una influenza determinante nella medievistica italiana. Io mi chiedo, che questo è uno studio che non è stato fatto, ma che cosa è stata realmente la medievistica italiana fra le due guerre? Forse la risposta più positiva può venire guardando agli studi relativi alla storia medievale del Mezzogiorno. Ma per quanto riguarda il resto, abbiamo grandi monografie, ma sul filo rosso, in questo caso, della tradizione più ovvia, più tradizionale. Lei voleva dire qualcosa? Sì, allora posso finire così. Ecco, dopo la guerra no, questo non c'è stato certamente più, anche perché, e del resto tu stesso l'hai scritto, quello che veniva proiettato come un argomento di non necessaria importanza nel dibattito storiografico dallo storicismo crociato, ritornava, non dico di moda, ma ritornava in auge, da un lato perché lo storicismo crociano entrava esso stesso in crisi, anche se questi sono gli anni delle grandi opere di Chabot, però le ragioni profonde, l'ottimismo, la stessa idea di sviluppo, processo positivo che nella storia lo storicismo crociano vedeva, era certamente entrato in crisi. E dall'altro erano apparse delle personalità attente a quanto avveniva oltre Alpe. Non dirò subito in Germania, questa è una parte che io non ho potuto sviluppare, faccio un esempio, non ho potuto sviluppare e quanto realmente, nonostante le dichiarazioni, uno storico che è stato anche il mio maestro, il professor Morgan, abbia realmente dovuto, per i suoi interessi relativi alla storia della riforma del secolo XI, alla storiografia tedesca. Morgan si compiaceva molto dell'amicizia e di certe affinità che vedeva lui con Grundmann. Io confesso di averle viste sempre molto poco. Certe idee generali, sì, ma al di là delle idee generali non lo so. Anche il rilievo che Morgan dava al fenomeno ereticale per la comprensione di tutto il Medioevo non credo che si potesse certamente riportare a Grundmann. E anche qui si doveva in ogni caso rilevare un differente atteggiamento, soprattutto nell'impostazione, nell'accostamento, nello studio, nell'analisi delle fonti. Un passo molto più importante, lo sapete benissimo, in questo senso è un recepimento molto più importante avvenne da parte di questa medievistica, cui oggi non ho avuto il tempo di parlare, ma che certamente credo mi farete la grazia di pensare che io conosca, un recepimento molto più consistente. consapevole anche degli strumenti, avvenne non con Morgan, ma con alcuni di quelli che intorno a Morgan si muovevano, in modo particolare con Manselli e con altri di quel gruppo lontano. Questo per dire che cosa? Per dire che in quel settore la medievistica tedesca esercitò una notevole influenza, ma in qualche modo fu inverata, almeno da Morgan, ma non solo da Morgan, dall'apporto di un'altra, che non era nemmeno medievistica e al limite non era nemmeno una storiografia, da un'altra corrente di idee, che era la corrente che io ho ricordato, seppure molto rapidamente, della Nouvelle Théologie. Anche lì, senza creare miti, non so quanto Morgan avesse letto sino in fondo le opere di Chenu, di Delubac, forse più quelle di Leclerc, che però si muovevano su un altro piano. Però certamente le conoscevano Manselli, Frugoni, le abbiamo conosciute noi, cioè Niccoli, io e altri, che adesso è inutile ricordare. E questa fu la prima reazione a una certa medievistica tedesca, che però non era innovativa al 100% o rivoluzionaria al 100%, come si sarebbe mostrata l'altra. Era innovativo il modo di affrontare, e per l'Italia questo fu decisivo, il modo di affrontare i problemi di storia ecclesiastica e di storia religiosa, che un contatto con questi grandi capisaldi della storiografia tedesca potevano suggerire. Ma questa stagione non poteva, non doveva, e questo fu il limite di Morgan, non poteva e non doveva avere l'ambizione di essere monopolizzatrice di tutta la medievistica, addirittura al punto da non valutare altre forme, altri aspetti, quanto a contenuti, lasciamo perdere poi quanto ai metodi e ai presupposti. E questo spiega, secondo me, che esauritasi una certa spinta, oppure avviatasi quella spinta, ma soprattutto, che è quella che dura ancora, nella rivalutazione e nel riesame di fonti nelle quali si erano viste cose che non c'erano, e questo avviene anche in Germania, e direi che è uno dei punti in cui una determinata medievistica italiana e soprattutto l'opera che si svolge ai Monumenta ha trovato dei punti di contatto molto interessanti, soprattutto per quello che concerne l'esegesi di certi testi. Ma dico appunto, questa non era la via che Morgan aveva preconizzato, e allora a un certo punto o si cambiava anche il sistema, pur rimanendo fedeli a una tematica, ed è quello che è avvenuto, almeno credo che sia avvenuto per parte mia, oppure c'erano altre tematiche che venivano dalla Germania ed erano tematiche che parvero, e questo credo di averlo detto, parvero essere certamente di ripresa di tematiche intermesse dopo i primi anni del Novecento, e erano le tematiche di Volpe. Ci si accorse, io mi ricordo anche con mio sgomento, di quello che diceva Chabot a lezione, che ci esortava, noi che eravamo allievi più o meno incipienti del suo collega e amico, ci esortava a non ridurre tutta la storia medievale a certe cose, se non con il rischio di non capire poi più nulla della storia e d'Italia e d'Europa. E io mi ricordo che un'osservazione di Chabot a noi era proprio questa. Chabot aveva avuto sempre la preoccupazione di avere un occhio rivolto anche alla storia del tardo medioevo, alla storia, se volete, del tardo comune. Mi ricordo che le opere, per farmi un'idea, ero studente, di certe cose, di certi fenomeni sul comune non andavano al di là, quelle che ci consigliavano, non andavano al di là delle grandi opere di Volpe. secondo me questo non era un fatto che potesse colpire me esclusivamente, ma colpiva anche gente più avanti, più matura, e fu il caso di Violante, quale Violante partì invece da istanze che erano tipiche, se volete, di Chabot. Volpe allora appariva un po' meno nel suo sfondo, e fece il suo primo volume, La società milanese. Quando venne a Roma cercò di coniugare le due spinte e fece La Pataria, volume che peraltro è stato molto importante, ma stranamente non ha avuto seguito in Violante, e se è stato ripreso da altri di noi più giovani, lo è stato in una chiave completamente diversa. E cosa rimaneva a questo punto? Rimaneva da esplorare che cosa ci potesse venire in un modo nuovo di avvicinarsi alla storia comunale. Non fu questo, rimanendo, a mio modesto avviso, un libro molto, molto bello, molto significativo, non fu questo il modo che propose l'unico che in quegli anni del primo o secondo dopoguerra scrivesse un libro di storia comunale, quello di Cristiani. Quello di Cristiani era molto critico per certi aspetti nei riguardi di Volpe, era un libro dove si vedeva il magistero di Bertolini e quello di Chabot, ma non aveva assolutamente, non aveva ritenuto di avvertire tutta quella problematica che invece dalla medievistica tedesca si stava organizzando. Quando questa medievistica, anche questo va notato, poté venire in contatto diretto con l'Italia, questo fatto avvenne non con una persona che aveva visto il momento più alto dell'affermazione della medievistica di Morgan, cioè Holtzman. Holtzman, che era un uomo completamente diverso da Morgan, ma forse proprio per questo che andava più d'accordo, a mio avviso, ma qui abbiamo dei testimoni che potranno smentirmi, certamente andava più d'accordo o meno in disaccordo con Morgan Holtzman di quanto stranamente non capitasse con la venuta in Italia di Gerd Telemann, che pure era stato uno dei presunti modelli di Morgan. Grazie, abbiamo proprio pochissimo tempo, quindi io direi al professor Malecek, se vuole intervenire, ecco, tra domande e risposte abbiamo 5 minuti al massimo, ecco, quindi mi dispiace questa strozzatura, ma credo che ormai proprio... del professor Capitani, che no, la mia domanda è già... diventa, sì, un po', perché io volevo... Al microfono, più vicino. Fare la domanda sul posto di due storici italiani che erano veramente familiarizzati con il mondo germanico, cioè Dupré e Manselli. Soprattutto Dupré, qual era il suo posto? Vorrei fare una piccola aggiunta. Nel 1962, all'occasione del millenario della coronazione di Ottone I, è stato proprio Dupré a fare la relazione solenne all'Università di Vienna, perché lui veramente era uno che conosceva il Medioevo tedesco, non soltanto i metodi dei storici tedeschi, ma veramente era uno specialista e parlava tedesco in un modo così che il Santifalla si decideva allora di chiederlo a fare questa relazione solenne. Ecco, questa piccola aggiunta. Grazie. La ringrazio molto. Vede, bisognerebbe avere il coraggio di non preoccuparsi troppo dei tempi, ma io me ne sto già portando via. Nella redazione primitiva della prima pagina della mia relazione, io mi stupivo che la bibliografia fosse stata affidata per la voce Germania a Bertolini e a Sestan, oltre che a Bottacchiari, e scrivevo, gliela farò vedere, e scrivevo, eppure altre persone ce n'erano, che si occupavano, che potevano occuparsi di determinate cose. Una poteva essere Morgan, ma lasciamo perdere. Morgan lavorava all'enciclopedia, ma era in pessimi rapporti, come sappiamo, con Volpe. Ma l'altro era Eugenio di Bret-Seider, che era perlomeno altrettanto bilingue come Ernesto Sestan, e forse lo era di più. Quindi quello che lei ha detto è giustissimo. Quale posto occuparono? Beh, nell'immediato dopoguerra di Bret-Seider, più di Bertolini, pagò una certa forma di isolamento, per motivi non so quanto esatti di preoccupazioni ideologiche. Posso solo dare una testimonianza. Io ho conosciuto bene di Pre, e oggi, quando mi sindignus, io sono il suo successore a Bologna. Ma di Pre non godette mai di grande simpatia da parte di quella personalità che fu dominatrice di tutta la storiografia italiana nell'immediato dopoguerra, e che fu Federico Chabod. Io questo lo so, Chabod aveva molte perplessità, nate non certo da perplessità di contenuti, oltretutto non c'era molto margine in comune, ma per me dagli atteggiamenti che Chabod non aveva forse apprezzato, che si erano prestati a critiche da parte di Chabod, nel momento in cui Chabod era a Milano e anche di Pre si avvicinava a tematiche che parvero troppo concessive, diciamo così, nei riguardi del regime. Sì, hai un par minuti. Nell'enciclopedia italiana dell'anno 32 non esce soltanto la voce Germania, ma anche la voce fascismo, la famosa voce scritta da Gentile e Mussolini. E questo mi porta a una domanda: se non sarebbe necessario di più di parlarne dell'influenza del tempo fascista sul cambiamento del paradigma nel dopoguerra, anche nella storiografia medievale, nella storiografia moderna e contemporanea, si vede naturalmente anche. Credo che proprio questo, che un uomo come Gioacchino Volpo, che ha studiato a Lipsia, citato allievo di Lamprecht, non sia stato possibile più nel dopoguerra, che italiani, medievisti, anche altri studiosi, sono andati in Germania per studiare la storiografia tedesca. Non mi ricordo che forse però ci sono pochi. Sì, ma ci sono pochissimi. C'è stata l'apertura nei confronti della storiografia francese anche per causa politica, perché c'è stato più attraverso, per esempio, di Chabod, della persona di Chabod, un'apertura antifascista, diciamo così, e questo forse è una delle ragioni di una rottura di quest'altra, di questa cultura tra le guerre e le due guerre. La ringrazio. Sì, al quarto dobbiamo essere là. Sì, sì, due minuti. Sì. Bitte, am Tisch, Tisch reden, das ist, nächste Tisch reden. Sono, yeah. Ein paar Minuten. Sì, yeah. No, ma io sono in gran parte d'accordo, soprattutto nella necessità che dei contatti storiografici che l'Italia ebbe negli anni 30, si possa avere da un rilevamento metodico, sistematico di certe voci dell'enciclopedia italiana. È una cosa che io sappia, io ho lavorato 12 anni all'enciclopedia italiana, bene, l'immagine vulgata, e anche questa è una parte che io ho tagliato, l'immagine vulgata della enciclopedia italiana che io recepivo negli anni tra i 56-57 e il 66-67 quando andai via, l'enciclopedia durante il fascismo aveva assolto una funzione culturale, aveva protetto e dato da mangiare agli antifascisti. Ora questo in parte, in gran parte è stato vero, ma non era questa la vera funzione culturale. Quindi giustissimo tener conto di certe cose. Quanto al fatto che poi non ci sia stata la ripresa dei viaggi di istruzione in Germania da parte... indubbiamente subito dopo il secondo dopoguerra, certo, questo non è avvenuto. Però io vorrei dire che non un'alternativa completa, ma una buona alternativa, almeno quando io ero studente e poi appena laureato, era rappresentata proprio dalla presenza dell'Istituto Storico Germanico a Roma. Questo valeva naturalmente per chi aveva la fortuna di studiare a Roma. Però io credo di poter affermare che già negli anni 60 e sempre di più adesso dei medievisti riuscivano a andare a Monaco. Miccoli c'è andato un'allieva comune, purtroppo oggi morta, mia e di Miccoli, cioè la Zafarana. Altri poi ci sono andati. È un processo certo più... è stato un processo lungo che si sta affermando adesso. Bisogna aggiungere una cosa, che purtroppo la generazione dei giovani studiosi di storia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si trovò con un ostacolo quasi insormontabile, quello della lingua. Non dico per parlarla, ma per leggerla e intenderla. E se posso, è l'ultima cosa che dico, auspicare fra le tante cose al Verein è quello di rinnovare in Italia almeno una conoscenza decente a livello di lettura e di interpretazione del tedesco, perché che sia importante per tutti gli studiosi è fuori dubbio, per un medievista. Grazie. Grazie. Allora concludiamo i lavori della mattina e nello stesso tempo la discussione sulla relazione Capitani. Credo che su questa poi si continuerà a parlare durante il corso e negli anni futuri. Ecco, penso che non solo gli storici italiani dovranno imparare il tedesco nei prossimi anni. Con questo concludo. Mensa è qui al di là del giardino subito, quindi andiamo tutti insieme e sono 200 metri. Allora lasciamo questo qui. Potete lasciare tutto qua.